Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. È stata la prima donna ad arrivare alla guida di un intero mandamento di Cosa Nostra. Ha avuto contatti diretti con i boss della cupola e molti di loro erano presenze costanti a casa sua, a Partinico, insieme ai fratelli. Perché lei, Giusy Vitale, era cosa loro, titolo scelto anche per un libro diario scritto con Mondadori insieme a Camilla Costanzo. Da boss ha avuto scambi di messaggi e affari direttamente con Provenzano e Matteo Messina. Denaro, ha conosciuto Totò Riina e ha incontrato più volte Brusca o Bagarella. Ha vissuto dall'interno la stagione delle stragi e ha provato il carcere duro del 41 bis, ma poi Giusy ha deciso di saltare il fosso e collaborare con la giustizia dopo il suo arresto nel 1998. La incontriamo in una casa super blindata di un anonimo condominio, con la carta da pareti ingiallita, gli scatoloni per un trasloco e le riproduzioni di Van Gogh sui muri. Loro avevano molta fiducia in me, forse questo è il discorso che io poi mi sono ritrovata a vestire quel ruolo, in quanto quando io ero più piccola loro a me un po' mi vedevano come il fratello più piccolino, non la sorella. Mi facevano crescere con il loro modo di pensare, il loro modo di fare. Erano arrestati e io ero sempre presente ai colloqui, perché poi ti ritrovi nella situazione che comunque i miei fratelli era uno arrestato, uno latitante, e io ero l'unica di cui loro veramente si fidavano sulle cose che dovevo raccontare a quello che era al carcere, a quello che stava latitante. Faceva la mediatrice nei messaggi. Sì, facevo da tramite. Quindi automaticamente alla fine, quando viene arrestato anche l'altro mio fratello che si trova latitante, io ero l'unica persona che realmente potevo prendere quel posto. Lei ha raccontato delle tante riunioni che ha visto, anche soltanto, o dei tanti personaggi che sono passati per casa sua. Stiamo parlando appunto di dei boss, dei capi anche di Cosa Nostra. Tu non hai proprio la certezza che quella persona fosse Totò Riina, fosse Bagarella, fosse Brusca, perché quando io andavo a trovare i miei fratelli, cioè o capitava che mi trovassi con uno di loro e arrivava qualcuno, a me non venivano mai presentati per la persona che era. Per esempio, quando c'è stato l'incontro, che sono andata una volta a portare a mio fratello delle bibite e loro poi in secondo tempo parlavano e stavano a lamentare che su Totò, cioè Pitto Torrina, si lamentava che Pino Provenzano un trattore si era presentato in veste di vescovo, vestito tutto con la tunica, cioè aveva dato un po' nell'occhio un personaggio comunque sia alla sua portata, e poi in un posto di campagna non è che sia meno appariscente, anzi, però magari lui camminava in quel modo perché si sentiva più sicuro, cioè veniva, se c'era un blocco di carabinieri non lo fermavano come potevano fermare alla semplice macchina comune con due uomini sopra. Ripensando a tutte queste persone, no? Di tutti questi nomi, a lei, di questi, per esempio di Riina, di Provenzano, piuttosto che di Bagarella o di Brusca, che cosa, quale immagine, quale dettaglio? Io per esempio mi ricordo di Bagarella. Cioè io quando ho conosciuto Bagarella, che è venuto a casa mia, lui era appena stato scarcerato, usciva dal carcere. E per esempio Bagarella era una persona tranquillissima, però gli occhi suoi erano come una persona che guardava da un lato, però aveva sotto controllo tutto. E di Brusca? Di Brusca, dico verità, era una persona tranquilla. Cioè Brusca l'ho conosciuto quasi, lo vedevo giornalmente, perché loro hanno fatto una latitanza insieme a mio fratello Vito. Lui con la sua famiglia, mio fratello a volte pure con la sua, con i figli e la moglie. Quindi capitava che gli portava alcune cose che gli servivano. Per esempio una volta la moglie voleva comprare un vestitino al bambino, e allora siamo andati in un negozio del paese mio a Partinico che vendeva proprio cose per bambini, che filmati, queste cose qua. E allora mi ricordo che questi completini che abbiamo preso li abbiamo preso al figlio di Giovanni, uguale a quello di mio fratello, che aveva pure un bambino più o meno della stessa età allora. Poi magari che veniva una festa come Natale, mio fratello faceva richieste che volevano mangiare pesce. E in quel momento loro erano latitanti, ed erano latitanti dove? Dove si nascondevano? Nella parte di Borgetto, in una casa di un paese vicino a dove abitiamo noi. proprio 10 minuti neanche. Abbiamo visto che è un po' sempre tutta quanta la storia, anche delle catture ultime che ci sono state, alla fine i grandi latitanti sono sempre nei dintorni del loro territorio. Lei che lo ha conosciuto dall'interno, questo mondo, la necessità di stare in quella zona è una necessità di difesa, di controllo? Al di là di controllo, perché se tu ti allontani non è la stessa cosa, perché magari capitano delle vicende che tu devi essere presente, quindi ti fa più meno fatica a spostarti da lontano che stare nelle vicinanze. E poi proprio per regola, comunque sia un mafioso che ha un capomandamento che di una zona, comunque non si può non ha quell'autorità di potersi allontanare, nonostante è un capomandamento. Però proprio alla vice di Cosa Nostra ti dicono che tu devi gestire il tuo mandamento, ma rimanendo sempre nelle vicinanze, a meno che non ti allontani per un motivo X, se possesse saluto altre cose, però viene detto, spiegato il perché, e poi ti allontani. A lei capitava anche di andare a chiedere ai suoi fratelli, a suo fratello soprattutto Vito, quando era latitante, indicazioni sulla gestione dei vari affari del vostro mandamento? Sì, qualche volta è capitato. Ad esempio? Sui lavori, magari che qualcuno veniva che ti diceva voglio prendere il suo lavoro e magari già era assegnato e doveva prendere qualcun altro, allora io magari gli dicevo a mio fratello guarda è venuto pure Tizio perché voleva sapere se poteva prendere il suo lavoro. Quali erano gli affari che avvenivano all'interno del vostro, i lavori che avvenivano, quali erano le cose che si controllavano, che voi controllavate all'interno del vostro mandamento? Ma si controllano gli apparti, i lavori edili, qualche negozio che comunque dal momento che c'ero io nel paese mio non pagavano, però la maggior parte del ricavato dei soldi vengono dalle estorsioni comunque che si chiedono alle imprese edile o che gli fai prendere il lavoro, quindi ti spetta una percentualità perché gli fai in modo che lo prenda al basso, e allora magari tu cercavi in modo di fare che quella persona prendesse quel lavoro, ovviamente sempre con delle persone che ti aiutavano all'interno. E c'era la fonte di guadagno, premesso che poi per ogni lavoro che facevano di tot cifra, che poteva essere 1 miliardo, che poteva essere 100 milioni, però ti davano la percentuale. E poi vabbè la droga, che comunque sì, i miei fratelli non è che abbiano avuto molto contatti su sta cosa. Dico la verità, sono stata io che poi c'è stato un periodo che mi stavo... però non ci sono arrivata, perché comunque sia, perché da noi i fratelli l'hanno sempre odiata la droga, cioè anche al paese nostro non doveva neanche girare. Ovviamente magari avevano gli affari di droga quelli grandi, ma era come esportazione, cioè arrivava a chili, si vendeva a Palermo, però nei paesi non si facevano sti traffici. Mi fa degli esempi, dei casi di lavori che vi sono passati tra le mani o di percentuali che richiedevate? Vabbè, maggior parte dei lavori edilizi che si sono fatti a Partinico, cioè pagavano tutti, tutti. E se qualcuno non pagava, magari poi si andava a fare dei lavori in campagna, per esempio le stalle e queste cose, non li pagavano. Cioè cercavano di far rientrare la bilancia su questo modo, però pagavano il 3% allora dei lavori. E magari chi prendeva il lavoro e c'aveva ulteriore guadagno, aveva l'occhio di riguardo che magari ti regalava altri 10 milioni in più rispetto a quelli che ti doveva dare, proprio perché si sentiva in obbligo nei confronti tuoi, perché magari quel lavoro era andato bene, ci avevano guadagnato più del dovuto. E allora, perché anche là tu sai che quando vanno a prendere il cemento da chi lo prendono, sai comunque i materiali dove li vanno a prendere, bene o male tieni un po' tutto sotto controllo e sai se ci guadagnano, se ci vanno sotto. Cioè se una persona comunque ci va all'astrico che non guadagna soldi, non gli vai a chiedere i soldi, perché comunque sia sempre un paesano tuo. Poi quanto riguarda gli altri lavori fuori, per esempio c'era un libro mastro dei lavori che fa parte del comune, che ogni anno sul libro mastro ti dice che ha la durata di 3-4 anni. Comunque ci sono i lavori che escono, per esempio illuminazione, per esempio strade, qualsiasi tipo di lavoro. E già noi questo qua lo sapevamo anticipatamente quando dovevo uscire sul lavoro, e quindi tu già eri preparata al momento in cui uscisse, sapevi a chi farla assegnare. Ma a volte gli appalti possono essere anche appalti grossi, appalti di soldi, non so, comunitari, di grandi opere pubbliche, ad esempio, no? Di strade. Anche tutto questo? Sì, anche come strade, per esempio mi ricordo una volta, mi ricordo il gas che stavano a mettere tra Alcamo, parte di Castelvetrano, Alcamo, io mi ricordo che allora mio fratello aveva contatti con quelli di Alcamo, proprio perché stavano a passare i tubi e là dovevano pagare chi faceva i lavori, era una cosa che comunque non era comunale, ma bensì perché si parlava del gas e galgas, quelli del bombole, che di, il metano in pratica, che arrivava direttamente nelle case, perché ancora giù in Sicilia non era, sono meno evoluti su sta cosa. Quindi mi ricordo quell'anno che poi lui è stato arrestato, quindi sta cosa un po' non so chi l'ha gestita. Io sono stato arrestato dopo di lui, dopo 2 mesi, quindi non so più chi l'abbia gestita vera e propria. Però comunque quella cosa la stava gestendo mio Qual fratello. è stato l'affare più grande in cui i suoi fratelli o direttamente o comunque sono stati coinvolti per il tramite anche di altre persone con cui lavoravano, con cui avevano contatti? Io sta cosa non lo so dire, so solamente che una volta mio fratello Nardo è stato fatto da tramite con Giovanni Brusca perché avevano venduto una sofisticazione di vino, che allora si trattava che lui ha venduto il vino grezzo e l'ha venduto a una cantina e poi la cantina gli ha ripagato su, non so, su 800-900 milioni, che quelli mi costano a me perché li ho avuti nelle mie mani, quindi automaticamente l'ho vissuta. Poi altre cose, a me mi arrivavano i soldi, però non chiedevo da dove, come. Storielle. Storiacce. Ha avuto scambi di pizzini e rapporti diretti con uno dei boss ancora latitanti di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Prima di decidere di collaborare, Giusy Vitale è stata una potente boss di Cosa Nostra, prima donna alla guida di un mandamento mafioso che ha gestito per intero, dalle estorsioni al controllo degli appalti, dalla droga alle alleanze. Ora in Sicilia c'è una fase di transizione, dice, raccontandoci del boss di Castelvetrano ancora in fuga, ma anche di altri capi col suo stesso potere. E ci parla di quando, anni fa, in Cosa Nostra già si discuteva del ponte sullo stretto. C'era una persona che si dedicava al ritiro dei soldi, degli appalti proprio, dei lavori. Magari quando arrivavano, mi arrivavano con un bigliettino con scritto il nome. Chi pagava delle cantine venicole, mi arrivava su biglietti, sta mazzetta di soldi, ma che c'era scritto cantina di Brugnano e già sapevo che comunque aveva pagato, oppure del Coop che si era messo a posto. Sempre il 3% per tutti oppure cambiava in base agli affari? Magari 700 milioni non ti arrivano tutti insieme, te li danno in 2 o 3 volte, però comunque sia te li portano in contanti. Lei nel momento in cui ha avuto anche lei direttamente, dopo la cattura dei suoi fratelli, la gestione del suo mandamento, ma anche subito prima, si occupava anche del mantenimento delle famiglie? Si cercava di dargli quello che si poteva, perché pure dalle entrate che tu facevi, io ricordo che magari se c'erano bambini gli davi 1.300, 1.400, 1.500.000, Per esempio mi ricordo per il periodo di Natale si preparavano le ceste, se c'erano dei bambini, se ci portavano gli uova di Pasqua ai bambini. Lei li conservava in casa tutti questi soldi? Sì. L'avevo nel controsoffitto dove c'avevo i faretti, avevo smontato un faretto e Lei ha incontrato anche Matteo Messina Denaro. ho avuto contatti tramite messaggi, biglietti. È Che cosa vi scrivevate? Che tipo di messaggi avevate? stato quando mio fratello Vito è stato arrestato, che allora gli ho fatto sapere che comunque se non era cambiato nulla e che comunque la famiglia Vito era rappresentata da me e che le cose proseguivano fino a quando non avevo nuovi ordini dai miei fratelli in questo modo, che lui non si doveva preoccupare perché tutto era rimasto per come era fino al momento dell'arresto di mio fratello. E lui che cosa le rispose? Che non avevano problemi. Dopo l'arresto di Giovanni Brusca, mio fratello è stato capomandamento di Cosa Nostra, cioè mio fratello ha gestito la Sicilia e una volta che lui viene arrestato, lì ho preso io quel potere. Non è perché Matteo Messina Denaro fosse sotto il mio fratello sotto a lui, ma c'era un reciproco rispetto perché lui gestiva la zona di Castellammare, cioè di Trapani, Castelvetrano, e loro gestivano quest'altra parte di Sicilia, cioè. Avevano lo stesso ruolo, però il conto e ragione si dava sempre a Cosa Nostra. Comunque sia, se lui faceva uno sgarro era una guerra, invece si sono alleati, cioè c'è stata un'alleanza, a differenza magari dell'alleanza che non c'era stato con Santa Paola. E in quel momento anche con i suoi fratelli ci furono anche degli affari fatti insieme tra il vostro mandamento e quello di Matteo Messina Denaro. C'era proprio quella cosa che li accomunava, era una concomitanza. Se lui aveva bisogno, basta che chiamava e da quest'altra parte lo aiutava. Sapeva che lui poteva contare su mio fratello e mio fratello su di lui. Secondo lei è lui ora il capo più alto della Sicilia Ma malavitosa? no, no. Allora, se dobbiamo andare per regola, cioè che lui ha i suoi anni di latitanza e tutto quanto, per la posizione che ha vestito, potrebbe essere una persona che può prendere quel posto. Ma lui può prendere quel posto sempre rimanendo nel suo lato. Non lo vedo che possa gestire l'altra parte di Sicilia. Quindi secondo lei c'è comunque qualcuno che adesso ha preso anche il posto di Provenzano, di Riina, di Lopiccolo che sono stati arrestati oppure riescono ancora anche? Comunque sì, a me per esempio il Lopiccolo, io non l'avrei mai pensato che comunque il Lopiccolo sarebbero stati in grado di riprendere i fatti. Se Matteo Messina Denaro poteva essere all'apice, rappresentare il capomandamento di cosa, alla cupola in pratica, tu pensi che il Lopiccolo era in grado di poter gestire, face, un capo di Palermo? Ci sarebbe stato Matteo Messina Denaro e lui poteva essere un capomandamento di una zona. Che sia risultana, che sia. Capisci? Quindi adesso sarà ancora così, una suddivisione di zone, comunque non c'è Ma dipende un. perché cioè, loro hanno altre alleanze. Prima che lei venisse arrestata, oppure già si parlava all'epoca di Ponte sullo Stretto, lei ne ha mai sentito parlare? Ma sì, io ne ho sentite parlare non tanto quanto il lavoro che dovevano fare per i guadagni. Però si valutava se era conveniente o meno, quanto poteva fruttare avere un ponte o non averlo. Poi per esempio c'era il discorso che comunque c'era pure l'andrangheta, l'ace andrangheta calabrese, e comunque non è che avevano brutti contatti con noi, cioè anzi c'era bisogno, comunque si scambiavano i favori. C'è mai stata qualche riunione operativa su questo, anche se era un progetto tutto assolutamente lontano? Ne sentivi parlare, in aria si sentiva perché tu sai, poi in Sicilia quando sentite che fanno una cosa del genere, ti senti in America, pensavano che dovevano fare il ponte Brooklyn, dici guarda, quindi la gente è Una cosa. entusiasta. So comunque che i contatti c'erano perché mio fratello li aveva, cioè fino a quando c'era mio fratello ho avuto pure contatti con i calabresi, quindi è normale se tu hai dei contatti con delle persone, magari se c'è un problema ne discuti. O qualcosa di guadagno, giusto perché o vuoi Non non era vuoi se. dovevano Per allearsi. forza. Questi contatti con il fronte calabrese erano nati da qualcosa in particolare? Che loro avevano avuto, si fornivano delle armi, quindi c'erano degli accordi di armi che arrivavano a Messina e poi li scambiavano. Quanto riguarda la droga, dipende dove approcciava prima i naufraghi che arrivavano. Ecco perché nasce, perché comunque si mangiavano tutti e due. Quando è stata lei a occuparsi del suo mandamento, aveva un suo libro mastro? Io ricordavo molto tutto benissimo, però io non nego che comunque avevo un'agenda dove che certe cose me le appuntavo. Un'entrata di soldi che poteva essere importante, di persone che magari che col nomignolo che aveva all'indomani poteva cambiare. A un certo punto si è dovuta anche trovare nella situazione di dover decidere chi tenere e chi far fuori. Lei Sì. ha citato Capaci. Quando ha scoperto che Brusca è stato quello che ha premuto il pulsante del telecomando della strage? L'ho scoperto al momento in cui veramente sono venuti fuori i fatti. Sa, magari avevi il sospetto che così parlando una volta dicono che doveva succedere veramente l'era di Dio, nel senso che sarebbe successo qualche cosa di grande, ma mai e poi mai hai il sospetto che potesse essere una cosa del genere o chi. Vedevo magari certi giorni che i miei fratelli erano più nervosi o situazioni che magari anche che non si gestivano. Prima di Capaci lei se n'era resa conto che c'era comunque nell'aria qualcosa. Brusca aveva un Però rapporto stretto con suo sì, fratello. quando io ho chiesto a mio fratello perché era successa questa cosa, da mio fratello mi viene detto che comunque sì, questa persona era andata oltre i limiti. Cioè, per Falcone, che comunque si era arrivato in un punto che non doveva arrivare. Siccome non l'aveva capito, da solo gliel'hanno fatto capire. Se tuo fratello ti dice questo, vorrà dire che comunque sia dietro chi gliel'avrà detto e a conoscenza. Dopo la morte di Falcone, invece, tutti da subito, e lo stesso Borsellino lo disse, no? Che lui sapeva di essere il predestinato. Ma lo sapeva perché sapeva di essere arrivato dove doveva arrivare. Dove era arrivato? Veramente a chi sono stati? Perché io dico sempre che comunque la mafia da sola non può fare niente se non c'è l'aiuto di persone potenti, colletti bianchi. Loro avevano dei punti di riferimento troppo precisi. La loro intenzione era quella di far buttare uno stato a terra, cioè di proprio farlo cadere. Dopo l'era, no, dello stragismo, l'era di Rina, ci fu il momento in cui, anche dopo la cattura di Rina, con Provenzano si dice la linea fu quella della sommersione, no? Del silenzio e degli affari. Voi dall'interno sentiste che in quel momento era un momento in cui ci si doveva più concentrare, no? Non so, a incamerare, a far soldi, era il momento degli scambi maggiori con l'eroina, anche con l'America, piuttosto che gli equilibri dovevano rimanere così come erano. La vostra famiglia non aveva tanto buoni rapporti con Provenzano. Ma non era solo la mia famiglia, perché credo che non è una cosa personale, perché se la mia famiglia non aveva tanti buoni rapporti con Provenzano è perché qualcuno al di sopra della mia famiglia aveva lo stesso rapporto. Chi era questo qualcuno? Per me c'è qualcuno che comunque sia, quando io, proprio io personalmente, ho detto che Provenzano comunque doveva rimanere nella sua casa a farsi la calzetta, vabbè, a stare buono dove stava. A me mi sono arrivate le disposizioni da mio fratello, e mio fratello mi ha detto pure: fagli sapere che arriva da chissà lui, cioè dal di sopra di noi, perché una persona in carcere non è che è morta, quindi l'altro è successore. Quel capo rimaneva sempre Rina, eh. Questo vuol dire che Rina, anche da dentro al carcere, ha continuato, anche durante la latitanza di Provenzano, a gestire la parte maggiore degli affari di Cosa Nostra. Sì, per me sì, cioè per quello che io ho vissuto. E lei con Provenzano, oltre a questo, ha mai avuto altri scambi di pizzini? No, però scambi di soldi sì, per i dei lavori che si facevano. C'erano appartiedili, poi lui dei soldi che dovevano arrivare a noi me li ha fatti arrivare tramite sempre persone con biglietti che erano per quel tipo di lavoro. Che scriveva nei biglietti? Io mi ricordo i biglietti che scriveva mio fratello, ma più che una persona, cioè, delinquente, sembrava un prete. Sempre le ultime parole che lui finiva, che era quello che Dio vi benedica, che Dio vi protegga famiglia, come un avvertimento, a mio parere. E di rifiuti? Dei rifiuti sì, anche già da noi c'è stato, però ci sono dei processi comunque, indagini e cose in corso, sì. Non è soltanto una vicenda campana. No. Secondo lei in questo momento denaro si nasconde nella sua zona? Non è piccolo, cioè non è che c'è solo Castelvetrano. Ti puoi spostare nei paesi limitrofi, comunque sì, e ci giri attorno. Ora che è anche fisicamente lontana dalla Sicilia, come considererebbe lei la situazione attuale in Sicilia? Per me è un momento comunque di transito, che dall'arresto di alcune persone stanno provvedendo a farne altri, però nel senso di gestirli in una maniera che siano tutte compatte. Chi potrebbe essere, secondo lei, le famiglie Ma ci più... stanno tante famiglie a Palermo, ad esempio, che poi sono molto alleati con i corleonesi, come ad esempio anche Mimmo Raccuglia. Se tu mi fai un paragone tra Mimmo, Matteo Messina Denaro e Mimmo Raccuglia, posso dirti che sono allo stesso livello.